noi saremo là soli ma insieme. Io ritornerò, credimi, l'uomo che hai amato in me. Resta qui con me. Io sarò per te un angelo vero che sogna e che sa rallentare il tempo che non passerà.

che il tempo ci ritrovò. Lui aprì la mano e poi mi toccò il naso ed io sorrisi. sorriso nell'andartene. Aspetterò anche un ritorno impossibile, sembra possibile per me. Ti aspetterò. I don't know.